Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Gentile direttore, nei giorni dei disagi causati dal noto vulcano islandese, una mia dipendente, dopo aver trascorso una settimana di ferie, rimase bloccata in territorio spagnolo e dovette fermarsi lì una seconda settimana senza poter rientrare al lavoro. Per questo, una volta giunta in Italia, si recò al sindacato per chiedere come poter fare per non perdere 5 giorni di paga. Il consiglio che le diedero fu, letteralmente, «Vai dal tuo medico e fatti fare un certificato di malattia». La dipendente, che è persona onesta, ribadì «Ma io non sono ammalata e per di più ero in vacanza all'estero». La funzionaria sindacale concluse «Fai scrivere che soffri di esaurimento nervoso. In questi casi il dipendente in malattia può viaggiare». Ecco, ora lascio ai lettori di destra e di sinistra, agli imprenditori, ai contribuenti, agli ispettori, all'INPS, al Ministero del Lavoro e anche al Ministro Brunetta il diritto di commentare quanto accaduto. Che ne dice, direttore? Marco. Gentile Marco, il consiglio del sindacato, che vorrei considerare solo come una presa di posizione personale di un funzionario sindacale, si commenta da solo. Siamo al limite dell'istigazione alla truffa. Ma un commento vorrei farlo anche sulla sua dipendente. Se avesse voluto, anche se con un po' di disagio, avrebbe potuto rientrare in Italia dalla Spagna con un treno, in pullman, da Barcellona anche in nave. Se è rimasta è perché voleva fare una settimana di ferie in più. E quindi la prima scorrettezza l'ha commessa la sua dipendente, cercando una giustificazione che non poteva esserci. Il giudizio sull'onestà non va cercato solo nelle risposte, talvolta anche nelle domande. Sono un ragazzo di 16 anni. Ho sentito che gli israeliani hanno attaccato alcune navi che portavano aiuti di vario genere al popolo palestinese. E vorrei far notare il mio disappunto per questo attacco da parte del popolo di Israele. Dov'è finito quel popolo che circa 55-60 anni fa ha subito quelle sofferenze che sono il genocidio? Come può un popolo che ha tanto sofferto e che ancora oggi si lamenta di non aver ricevuto tutti gli aiuti disponibili far sì che altri popoli non ricevano il giusto aiuto per evitare ulteriori sofferenze? A parer mio, il loro comportamento non farà altro che creare lo sdegno di molti paesi e fomentare l'odio di alcuni che possono causare anche spiacevoli conflitti. Ricordo anche che come conseguenza di una crisi c'è sempre stata una guerra. Facciamo in modo che questo non diventi la scintilla che crea la fiamma e apriamo le porte al dialogo. Marco. L'associazione umanitaria turca Leggi Islamica, che ha organizzato il convoglio di navi, è notoriamente molto vicina ai terroristi di Hamas. Gli ebrei hanno fatto bene a fermarla e non mi stupirei se in qualche stiva ci fosse un carico di armi. Che poi la sinistra italiana sia tutta sbilanciata dalla parte araba è un fatto notorio, ma vi ricordo che Brecht diceva che se 80 milioni di tedeschi sono nazisti e solo 3.000 antinazisti, non è detto che abbiano ragione gli 80 milioni. Edoardo. Non si può definire provocazione l'azione di Freedom Flotilla per un semplice motivo. L'embargo cui Tel Aviv sottopone Gaza è illegittimo. Di più, la Marina dello Stato ebraico non aveva diritti di intercettare alcun naviglio in acque internazionali, ben 70 chilometri dalla costa. Non piacerà, ma Hamas ha vinto le elezioni a Gaza. Non si può dire di volere la democrazia e poi rifiutare il risultato delle elezioni quando questo non ci piace. Le provocazioni come boicottaggi sono uno degli strumenti della democrazia. Il solo pensiero che ci sia qualcuno che possa adombrare intenti antisemiti a chi li propugna mi fa rabbrividire. Marco. È triste dirlo, ma sui 19 morti che hanno tentato di forzare il blocco navale israeliano pesano le colpe di una demagogia della quale l'onorevole Paolo Ferrero è il tipico rappresentante. Stefano. Qualsiasi forzatura di un blocco o una zona rossa implica la reazione di una qualsiasi forza di polizia o esercito. Perché solo in certi casi ci si indigna? Pur con tutto il cordoglio per le vittime, naturalmente. Gianni. Sono un lavoratore dipendente, funzionario commerciale di una media azienda italiana. Ho presentato proprio in questi giorni il modello 730 e su un reddito lordo di 54.000 euro ho versato 18.000 euro di IRPEF durante il 2009. Con questo reddito sono considerato un quasi ricco, fiscalmente parlando. La sensazione è invece quella che il paese sia sorretto da quelli come me che pagano di IRPEF tanto quanto intere categorie di lavoratori autonomi spesso non dichiarano nemmeno come reddito lordo. Andando avanti così non avremo futuro. Giuseppe, Padova. Gentile direttore, nel nostro paese è ben noto che le leggi sono applicate in base a come si alza il giudice la mattina della sentenza. L'ennesimo caso che qui desidero citare è quello della tassazione del reddito proveniente dalla prostituzione. Non essendo reato prostituirsi, una ricca signora milanese vinse la causa dopo che il fisco si era affrettato a sostenere che il suo patrimonio, composto da svariati appartamenti, proveniva da un'attività illecita. Siccome la legge stabilisce che va tassato anche questo tipo di reddito, la donna doveva pagare. La verità, dichiararono nella sentenza i giudici presieduti da Sandro Raimondi, è che, alla luce dell'attuale ordinamento, i proventi della prostituzione non possono essere considerati tecnicamente redditi, perché non possono essere collocati né tra le attività illecite né tra quelle lecite. È questa, a mio avviso, la corretta interpretazione. Però non finì lì, e dopo 2 anni la nostra tanto sbandierata legge venne interpretata diversamente, anzi all'opposto. Con sentenza d'appello si ribaltò la sopra citata sentenza. Si ravvisarono elementi in numero più che sufficiente per poter affermare la tassabilità, quantomeno da un punto di vista teorico, del reddito ottenuto mediante l'esercizio del meretricio, essendosi via via dimostrata l'inesistenza di qualsivoglia pregiudiziale contraria, tenuto conto che non esiste alcuna norma che preveda espressamente una sua non tassabilità. Ora, ditemi voi che cosa deve capire il cittadino medio, l'elettore, la prostituta o l'avvocato. Se ha ragione il primo giudice, allora tutti coloro che subiscono contestazioni dal fisco possono dichiarare di essersi prostituiti. Se invece ha ragione il secondo, quello dell'appello, allora si dovrebbero tassare tutti coloro che sul territorio italiano vivono prostituendosi. Nella seconda ipotesi, la recente manovra di Tremonti sarebbe stata ben più modesta dei 12 miliardi previsti. Tra donne, uomini e trans sono oltre 60.000 in Italia le persone che guadagnano vendendo il loro corpo. In entrambi i casi il nostro Stato non ci consente di capire da che parte sta la giusta interpretazione, o ancora meglio, con che criterio i giudici interpretano la nostra legge. Marco. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.